Il punto di Stefano Folli. L'Italia non ha bisogno di mezze misure, ma di riforme radicali, dice Mario Monti inaugurando la sua campagna elettorale. Ed è così, non c'è dubbio, salvo che troppe volte abbiamo sentito annunciare che saranno tagliati i parlamentari e sarà fatta subito la nuova legge elettorale. Sono i punti che Monti ha messo in testa al suo programma per la prossima legislatura e sono le stesse cose però promesse da anni, senza alcun esito pratico, anche da molti altri. Forse sarebbe meglio che dal leader di una terza forza che aspira a governare, anzi di più, a imporre la propria agenda al prossimo esecutivo, fossero venute più idee e proposte per aprire l'economia e uscire dalla stagnazione. Il problema è urgente e dovrebbe essere, invece non è, al centro della campagna elettorale. E il durissimo articolo del Financial Times contro Monti, ma anche contro l'insieme delle forze politiche italiane giudicate inadeguate, deve far riflettere.